Europa 24. Bandiere a mezz'asta nelle sedi delle istituzioni europee dopo quanto accaduto ieri a Parigi. Le istituzioni europee hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'uccisione di 12 persone a Parigi nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo. L'attentato coincide con l'inizio di un anno cruciale per l'Unione, come ha ribadito di recente il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. La tragedia francese sottolinea drammaticamente la difficilissima situazione sociale e non solo economica in cui versa l'Europa. Il continente è segnato da una elevata disoccupazione, movimenti protestatari, tensioni religiose e dubbi sulle politiche di immigrazione in molti paesi europei. Juncker, che oggi sarà a Riga per inaugurare il semestre di presidenza lettone dell'Unione, ha fatto di un piano di investimenti da 315 miliardi di euro un volano della ripresa economica e uno strumento per scalfire le tensioni sociali. L'attentato a Parigi di ieri rende misure di rilancio dell'economia ancora più urgenti. Lo stesso Juncker poi ha promesso a breve nuove proposte per una gestione comune dell'immigrazione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Riga. Secondo l'ultimo sondaggio, Syriza, il partito di sinistra radicale e maggiore formazione politica all'opposizione in Grecia, guidato da Alexis Tsipras, si conferma al primo posto nelle preferenze di voto dei greci, incrementando lievemente il suo vantaggio sul partito di centrodestra al governo guidato dal premier Antonis Samaras. Una possibile vittoria del partito di Tsipras preoccupa non poco l'Europa. La Germania non sarebbe disposta ad accettare una svalutazione del debito greco, ma sarebbe pronta ad aprire ad un'eventuale rinegoziazione sui termini di pagamento di Atene. La Grecia però deve attenersi al piano di austerity della Troika. Syriza non vuole che la Grecia lasci l'eurozona, sostiene Kostas Chrysogonos, membro del Parlamento europeo e appartenente al partito di Tsipras. No, we don't want to exit the eurozone or the union. What we want is to ask. No, noi non vogliamo uscire dall'eurozona o dall'Unione Europea. Ciò che vogliamo è chiedere ai nostri partner, agli Stati membri, di darci lo spazio per respirare all'interno dell'eurozona e all'interno dell'Unione Europea. Tutto quello che chiediamo è di dare un'opportunità alla Grecia. Così parla Chrysogonos in un'intervista ad Euronet Plus. Sarebbe drammatico, dice ancora, anche per l'Unione, e sarebbe la prima volta che uno Stato membro uscirebbe non solo dalla zona euro ma anche dall'Europa. Il problema principale è la dimensione del debito pubblico greco. Il nostro paese lo ha accumulato oltre la capacità di reggerlo che ha la sua economia. Ed è stata colpa non solo delle élite greche, ma anche di quelle europee, che innanzitutto hanno accettato la Grecia come membro dell'eurozona, nonostante non soddisfacesse ovviamente i criteri scritti nel Trattato di Maastricht. Prezzo del latte in forte calo in Europa, in sei mesi è sceso del 50% e il 31 marzo finisce l'era delle quote latte, il meccanismo europeo in vigore dal 1983 che tante polemiche ha generato in Italia. L'Europarlamento sta lavorando sulla proposta di un nuovo meccanismo da presentare al commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan. Lo annuncia Paolo De Castro, coordinatore del gruppo dei socialisti della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Siamo all'inizio. Noi ieri con il gruppo S&D abbiamo aperto una serie di riflessioni, di workshop, di hearing che farà la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo tutto il mese di gennaio. Il 1 aprile 2015 cessano le quote latte. Riteniamo sia comunque necessario prevedere un meccanismo di gestione dell'offerta, e quello a cui stiamo pensando è un meccanismo flessibile lasciato agli Stati membri, ma che scatta solo in determinate condizioni, quando effettivamente il prezzo del latte crolla, per dare la possibilità agli Stati membri di introdurre meccanismi incentivi o disincentivi a raggiungere e mantenere un obiettivo di produzione. Comunque siamo già di fronte a, diciamo, dei numeri che necessitano di questo meccanismo. Noi abbiamo un crollo del prezzo di oltre il 50% come conseguenza proprio delle quote che si stanno eliminando. I tempi di approvazione di una nuova gestione dell'offerta, quali sarebbero? Io direi che entro, non dico la fine delle quote, ma insomma più o meno entro maggio poter avere un meccanismo post quote. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.